Charlie XCX qui su Radio Stonata con Boom Clap, ma è arrivato il momento di collegarci con il nostro Flavio Lagia di nonsoloturisti.it, che questa sera si trova al Foro Italico, vero Flavio? Sì, esattamente. No, non sei a ovviamente fuori. No, sono... Dove... Beh, dillo tu Beppe, visto che ci tieni tanto ormai, vuoi l'assessorato... l'ambasciatore ufficiale di questa cittadina mantovana. L'assessorato al turismo del di Castel Goffredo in provincia di Mantova promuove questo spazio dedicato a Flavio Lagia di nonsoloturisti.it qui su Radio Stonata. No, veramente, un giorno lo devi, cioè, devi andare in comune e gli dici: guardate, io vado tutti, no, giorni martedì e giovedì in diretta su Radio Stonata e parlo della nostra bellissima... Siamo sempre Castel Goffredo. Ricordo patria della calza, del collante, del ping pong e del tortello amaro. Okay. Ecco, così abbiamo fatto lo spot completo. Oh, finalmente. E quindi Flavio, invece, no, cosa ci racconti stasera? Beh, di ultime pellegrinazioni, anche se a breve, mi hanno portato a scoprire qualche meraviglia anche qua nelle vicinanze, senza necessariamente andare sempre in Africa o in altri lidi lontani. Se ricordi, l'ultima volta ho accennato al fatto che venerdì sono stato a Chiari, provincia di Brescia, dove durante il fine settimana scorso si è tenuto il Festival del Benessere Chiarissima, e quindi sono state bancarelle con esposti naturalmente tantissimi prodotti biologici, tante tecniche di coltivazione, tanti progetti raccontati e dimostrati. Ci sono stati anche dei laboratori di Tai Chi e di yoga e di massaggi naturalmente, e c'eravamo non ben non so bene quale scusa, ma c'eravamo anche noi con 7.000 miglia lontano, che è il progetto di Giuliano Radici che mi ha portato in Africa proprio recentemente. Abbiamo distribuito un po' di magliette, abbiamo raccolto un po' di fondi per l'associazione con cui, ricordo, 7.000 miglia è gemellata, ogni tappa era collegata a una particolare associazione umanitaria, e abbiamo raccontato un po' il nostro progetto in vista della fase conclusiva di questa grande avventura. A settembre usciranno i progetti editoriali, i libri e racconti di questo incredibile viaggio, e tutta l'attrezzatura, comprese le due macchine che si stanno in qualche modo muovendo verso l'Italia sulle imbarcazioni uscite pochi giorni fa dall'Egitto, tutta questa attrezzatura, tutti questi strumenti verranno messi all'asta, e poi il ricavato sarà ridistribuito tra le sette associazioni. E ricordiamo Flavio che insieme alle vetture uno dei driver che ha preso parte a 7.000 miglia lontano verrà pure messo all'asta per una cena benefica, quindi se volete il nostro Flavio è la persona che verrà. No, purtroppo non mi considerano abbastanza prezioso per farmi partecipare all'asta, ma magari farò sapere a Giuliano della tua idea, chissà, magari l'anno prossimo. Beh, secondo me Giuliano sarà d'accordo con me, tu diglielo, cioè, se puoi in qualche modo raggiungerlo, diglielo, a Beppe gli è venuta questa idea, tu che pensi? E secondo me lui sarà d'accordo con me. Beh, a parte gli scherzi, che ho potuto visitare per la prima volta, non l'avevo ancora conosciuta, io non ho ancora scoperto la graziosa cittadina di Chiari, dove da diversi anni ormai si tiene questo importante evento. Ma non è soltanto Chiari che ho riscoperto di recente, infatti mio malgrado, perché come tu ben sai io solitamente esco fuori di casa soltanto con la precisa promessa di mangiare e bere a sbaffo nelle varie località in cui mi portano, quindi stavolta non mi hanno portato prettamente a rifocillarmi, ma mi hanno portato in bicicletta in provincia di Trento. Sono stato infatti a Rovereto con i gentilissimi e bravissimi ragazzi di Visit Rovereto, e mi hanno portato per una due giorni sulla bicicletta la scoperta del territorio della provincia di Trento, delle meraviglie paesaggistiche e culturali di questa splendida area. Siamo partiti sabato da Rovereto, e io ho fatto finta di avere qualche voce, qualche competenza nella fase in cui abbiamo scelto le nostre bici, ma fondamentalmente mi sono soltanto accertato che con la mia limitata statura riuscissi a raggiungere contemporaneamente il manubrio e i pedali, quando ho visto la faccia abbastanza sconfortata del tecnico che mi stava preparando il veicolo, insomma mi hanno dato una pacca sulle spalle e mi hanno lasciato partire, sperando probabilmente che non mi sfracellassi nel primo fosso. Sono sopravvissuto anche a questo. Siamo partiti da dove ho detto, dicevo, la prima tratta mi hanno detto era la più impegnativa. Io sinceramente ho creduto di morire 4-5 volte anche il secondo giorno, ma con i primi 20 km siamo arrivati ad Avio. Avio è una piccola località, sempre in provincia di Trento, appunto, poco distante da Rovereto, dove c'è lo splendido castello di Avio. La provincia di Trento, tra le tante meraviglie di cui dispone, ha anche questa collezione invidiabile di castelli medievali, e quello di Avio è sicuramente uno dei più spettacolari, ed è anche curiosamente uno dei pochi castelli che mi porto dietro con il mio amore infantile, perché pensa, ad Avio ho avuto, per me è stato un momento di un flashback emozionante, ho trascorso la mia prima gita scolastica quando ero un piccolo bimbetto, cioè ti sono venuti in mente tutti i ricordi, sì, quei quattro che ho, esattamente. Forse il primo amore pure, no, dai Flavio. Adesso non esageriamo, 8 anni, forse sì, no, ero innamorato di Licia, di Cristi Licia, non ricordo bene, o Cristina D'Avena, capirai. No, eravamo proprio andati ad Avio e io sono tornato per la seconda volta dopo tanti anni, ed è stata una bella esperienza, perché il castello non è soltanto uno dei più grandi, dei meglio tenuti, dei più complessi anche nella loro classificazione architettonica e storica, ma è anche uno dei più ricchi di arredi e di decori interni. Ci sono ancora le sale affrescate, c'è il mastio, che è la parte più antica, che è datata addirittura fino dietro nel 1100. Poi c'è è un castello che è in mano alla FAI, il Fondo Ambientale Italiano, ormai dal 1977, e purtroppo è in cima a una collinetta. Giustamente all'epoca non si preoccupavano che io lo potessi raggiungere in bicicletta, evidentemente si preoccupavano piuttosto che fosse ben collocato in modo da avere grande visibilità. Per fortuna insieme a me c'era la brevissima e gentilissima Chiara Pille, che è una delle responsabili di Visit Rovereto, e io ho potuto in qualche modo spacciare la mia scarsa condizione fisica con un più cavalleresco tentativo di non lasciare l'unica ragazza del gruppo troppo indietro, e quindi a metà percorso sono mollato giù dalla sella e ho cominciato a spingere la bici come qualunque altro pagliaccio. Ma noi speriamo che la tua amica, la nostra amica in questo caso ora, non ci stia ascoltando, perché cioè, gliel'avrei detto, cioè vedi che fingo questa cosa. Temo non ci abbia mai creduto, comunque l'importante era mantenere l'apparenza a beneficio dei fotografi e degli altri operatori presenti. Flavio, se non lo so, hai altre cose da aggiungere, se no ci sentiamo giovedì. No, beh, su Rovereto ci sarebbe ancora tanto da dire, oltre ai castelli, il fatto che ci abbiano portato proprio qui in questi 2 giorni di bici è dovuto all'intento, allo sforzo che sta compiendo la città negli ultimi anni di promuoversi come destinazione per il cicloturismo d'eccellenza nel panorama già molto ricco e vario della provincia di Trento e della regione. Tra gli impegni della città sono ovviamente le nuove piste ciclabili che consentono ai visitatori di raggiungere qualunque destinazione, qualunque sito di interesse, e soprattutto anche la creazione di strutture apposite per favorire la presenza e l'ingresso dei visitatori sulle ruote, in particolare i bici grill. Se sull'autostrada abbiamo l'autogrill, sulle ciclabili di Rovereto ci sono i bici grill, cioè tu entri con la bicicletta in questo parchetto e con un'area ristorante e bar dove poterti riprocellare. Noi ci siamo praticamente infilati in qualunque posto con le nostre biciclette, compresi musei e gallerie d'arte. E concludo dicendo soltanto che non vedo, fino alla fine di questa settimana, fino al 23 maggio, c'è l'iniziativa Palazzi Aperti, quindi tutte le prestigiose architetture rinascimentali medievali della città saranno aperte ai visitatori, e c'è naturalmente l'immancabile Marmo di Rovereto, il museo di arte moderna e contemporanea, che in questi giorni ho potuto anch'io visitarla, ospita una bellissima mostra sulla guerra, intitolata La prossima guerra non sarà la prima, un modo per ricordare e riflettere anche sulle atrocità di alcune delle scelte più drammatiche della nostra civiltà. Wow, cioè proprio ti sei divertito un sacco, immagino, Flavio, no? È sempre una bella esperienza. Però, ho anche potuto... però immagino ora immagino i tuoi polpacci, il tuo fondo schiena, ne stanno risentendo, perché il secondo giorno è quello più duro. Già, il primo giorno non senti la fatica, ma il secondo è quello più duro. Il primo giorno assorbi la forza e il dolore, il secondo giorno ti rendi conto che il fondo schiena umano non è stato progettato per stare costantemente sulla sella di una bicicletta. Flavio, mi sembra che abbiamo finito, no? Sì, ti lasciamo. Okay. Grazie a Flavio Laggia di nonsoloturisti.it, lo ritroviamo giovedì. Mi raccomando, usa un gonfiabile, un materassino, qualcosa sulle sedie. Ciambella, mi ha dato una ciambella gonfiabile. Ma funziona come rimedio? Ma insomma, sarebbe meglio essere un po' più allenati. Grazie Flavio, ciao, buona serata.